Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera sono in compagnia di un mito per la generazione dei baby boomers, quelli che guardavano la TV dei ragazzi, cioè Topo Gigio. Anzi, vi parlerò questa sera della creatrice di questo personaggio dal successo travolgente, cioè Maria Perego, che ha pubblicato Io e Topo Gigio, vita artistica e privata di una donna straordinaria, pubblicata da Marsilio, 286 pagine, 18,50 euro. Maria Perego è una signora di Venezia, ma trasferitasi ben presto a Milano, dove fu una delle protagoniste degli anni eroici della Rai, una signora molto colta, con una passione coltivata assieme al marito per il teatro di figura, che ella rese popolarissimo sul piccolo schermo grazie anche alla scelta dei materiali e di personaggi che partecipavano a trasmissioni di grande successo. Uno di questi fu un topolino, lanciato nel varietà Alta Fedeltà, che avrebbe poi acquistato lo status di autentica star col nome appunto di Topo Gigio. E il libro della Perego ci parla non soltanto di quel personaggio, ma di come si è formata la televisione, in particolare della grande apertura culturale che dominava in quei primi ambiziosi passi. La Perego, per esempio, si avvalse della collaborazione di un artista come Franco Rognoni o si ispirava all'arte di Saul Steinberg. Sentiamo adesso che cosa ha rappresentato questo rapporto fra la Perego e Topo Gigio. Buonasera a Maria Perego. Buonasera, signor Carrubba. Maria Perego, dal suo libro impariamo che Topo Gigio non nacque all'improvviso, ma fu il frutto di una lunga gestazione attraverso una grande passione per il teatro di figura. E, insomma, Topo Gigio è un vero personaggio, non è una macchietta, una mascotte. Addirittura lei scrive a un certo punto che Topo Gigio è un archetipo alla stregua di Don Chisciotte o di Chaplin. Sì. Almeno per me lo è, spero che lo sia anche per gli altri, perché sfrutta l'ironia, perché entra nel mondo dell'ironia, si esprime con l'ironia, con l'autocritica. D'altronde io ho avuto la mia formazione culturale nel dopoguerra, quando in Italia finalmente si aprivano le frontiere e le librerie offrivano opere di autori inglesi, americani, francesi, che fino allora c'erano stati preclusi perché il fascismo con l'autarchia ci aveva fatto leggere solo libri belli, ma dell'orto di casa nostra. E il teatro è stato un grande veicolo della cultura, delle culture straniere, e io ho letto molto di teatro. Poi, insomma, gradino per gradino sono arrivata al teatro di Marionetta e sono entrata in quel mondo affascinante e fantastico, fino a voler farne parte. Ho inventato il pupazzo, che è sempre un personaggio di fantasia, ma a differenza della marionetta e del burattino, portava delle innovazioni tecniche, anche perché al mio tempo nasceva anche la televisione, io dovevo esprimermi attraverso questo nuovo mezzo. Ecco, fermiamoci su questo. Lei l'ha chiamato il pupazzo, spesso nel libro lo chiama il pupazzo anziché Topo Gigio. Come mai questa dimensione quasi mitica? Perché prima di lui sono nati i pupazzi. Le piccole innovazioni che ho portato in questo genere del teatro di fantasia, non sapevo come chiamarle, le ho chiamate i pupazzi di Maria Perego. Prima io facevo scorrere i pupazzi di Maria Perego, non Topo Gigio, e poi invece lui ha preso il sopravvento su tutti. E in questa innovazione ci sono stati due aspetti di cui lei parla, il nero e il materiale. A un certo punto, esatto, lei si mette in viaggio per la Brianza e scopre la Brianza operosa. Scopro una Brianza incredibile, come sempre, e ho trovato questo materiale, e devo dire che mi ha agevolato moltissimo, perché era duttile, perché non rappresentava pieghe, bisogno di tagli, però non era ancora tutto, bisognava anche inventare il movimento. Ho fatto delle riflessioni, in fondo ho inventato una delle tante conflittualità, e lo dico nel libro, che creano stupore, cioè il conflitto generato fra la elementarità di un certo mezzo e la complessità della finzione che può evocare. Mi spiego meglio. È bastato rivestire le mani di plastica, di questo materiale duttile, e affidare ad esse, cioè alla parte più viva e più mobile del nostro corpo, perché le mani rappresentano sempre un grande movimento, il mio pupazzo, perché ne nascesse un personaggio. Ecco, a proposito di questo aspetto che ha citato, della conflittualità, lei scrive che in Topo Gigio il conflitto è dato dalla tensione tra il significato di marionetta e quello di personaggio reale, per la qualità e la libertà del suo movimento. Sì, infatti questo personaggio, Topo Gigio, è nato già subito con tutte le sue caratteristiche, cioè un casalingo italiano con una istintività di gesti che già contenevano il destino cordiale, naturalistico e sottilmente quotidiano di Topo Gigio. Così è nato e ha subito avuto fortuna, ma non in Italia, cioè in Italia sì, ha avuto fortuna, il pubblico lo ha amato subito, ma i primi a volerlo sono stati gli svizzeri. C'era un regista, Franco Marazzi, un giovane regista allora, che poi è diventato direttore artistico, che ci ha chiamato a fare le trasmissioni in Svizzera. Poi casualmente siamo stati chiamati in Gran Bretagna e Topo Gigio ha subito sfondato. Questo è un aspetto molto importante, perché lei scrive di Topo Gigio come di un personaggio casalingo e italiano. Lei lo pensò anche un po' in contrasto, in concorrenza con i grandi cartoni animati. In fondo poi Walt Disney ammirò Topo Gigio. Sì, lo ammirò molto, perché mi scrisse con grande affetto un biglietto dicendo che, dopo una trasmissione fatta alle Sullivan Show, che lui era ammirato di questo personaggio, che gli piaceva, si congratulava, ma sarebbe stato preoccupato per la concorrenza addirittura, però sapendo che io ero italiana non era così tanto preoccupato, perché sapeva che gli italiani ammazzano i loro talenti. E assieme a Topo Gigio lei è stata una protagonista della televisione, degli esordi e poi di tutti gli anni che sono seguiti. Ecco, non che... tanto, se pensa, ha avuto più successo che non presenza Gigio in Italia, ha avuto più presenza all'estero, perché se confronta gli spettacoli serali che io ho fatto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, in Spagna o anche in tutto Latino America, in Giappone, sono molti di più che non quelli che ho fatto in Italia. In Italia è stato molto ben servito quando è stato chiamato nella Canzonissima con Raffaella Carrà nel 74, ma lui già aveva alle spalle una grande cultura televisiva, perché in fondo Topo Gigio ha inaugurato la televisione a colori in Giappone, l'ha inaugurata a Los Angeles, l'ha inaugurata nel Latino America, cioè veramente Topo Gigio è stato amato all'estero, è stato un personaggio adoperato anche. A proposito del Giappone, lei ricorda un episodio molto significativo, e cioè di un incrocio che avete avuto con due grandi intellettuali italiani, Alberto Moravi e Dacia Maraini, che manifestarono il più grande sdegno di doversi confrontare o addirittura incontrare Topo Gigio. Sì. Che cosa significa questo atteggiamento? Era l'atteggiamento praticamente di tutta, posso dire, la gauche caviar, cioè la sinistra del caviale, che c'era in Italia, perché in fondo molto spesso in Italia c'è questo tipo di sinistra, mi dispiace doverlo, fra gli intellettuali naturalmente, perché Topo Gigio era un personaggio in fondo casalingo, era un personaggio e poi anche rappresentava il consumismo, e questo gli intellettuali non lo amavano, non volevano sentir parlare di sfruttamento, di merchandising, di pubblicità, perché rappresentava il mondo esacrato della destra degli Stati Uniti, che loro non amavano. E a proposito di gauche caviar, lei ricorda nel libro l'influsso che ha avuto sulla sua formazione il papà antifascista, in particolare uno dei miti di suo padre, cioè Piero Gobetti. Addirittura ricorda un tema nel quale individua una forma di rivoluzione liberale nell'Enrico IV di Pirandello. Sì, l'ho tirata un po' per i capelli, ma comunque è così. Pirandello era un rivoluzionario liberale quanto Gobetti, ed era meraviglioso Pirandello. non certo avrebbe mai potuto essere interpretato da marionette e burattini, perché lui rappresentava un mondo borghese, infondeva nei suoi personaggi delle istanze filosofiche che tendevano a scardinarlo, perciò le marionette non avrebbero mai potuto arrivare a questo tipo di borghesia sconvolta. Lei, che è una delle artefici della televisione italiana, si sarebbe aspettata la deriva che ha poi preso la televisione, non soltanto la RAI, ma anche le TV commerciali alle quali pure lei collaborò? No, al tempo in cui sono entrata no, perché facevano molte cose più culturali, ma poi me ne sono fatta anche una ragione, cioè non è solo la televisione che si è lasciata investire dal bisogno di ascolto. E devo dire che la televisione fa di tutto per salvare certi orari. Il canale Rai 5 propone delle cose bellissime, documentari, la musica. Purtroppo non c'è cultura musicale in Italia. E se la gente seguisse questo canale per quello che propone della musica, imparerebbero molto i ragazzi, ma non lo fanno. Magari aiutati da Topo Gigio. No, Topo Gigio ha fatto delle con serie. L'arte si è esercitato. Sì, sì. Poi alla fine ho proposto anche una serie sulla storia della musica, che era molto fantasiosa, non era mai stato detto: signora, ma lei è troppo intellettuale. Grazie a Maria Perego, le auguriamo buona serata assieme a Topo Gigio. Grazie. Tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le nebbole, nebbole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto girano le giribiricocole. Coccole, lasci andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. Mentre voi vi strapazzate di coccole, noi interrompiamo per qualche minuto. Coccole, coccole, lasci andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole. Mamma. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un tema che è molto dibattuto su tutte le pagine dei giornali e che ci riguarda un po' tutti, e cioè la crisi della politica. Mai la politica è caduta così in basso quanto a credibilità, non soltanto in Italia per la verità, ma praticamente in tutto il mondo. E così si parla ampiamente di crisi della politica e addirittura di crisi della democrazia. Su questo tema ormai si stanno esercitando in molti, anche intellettuali che non sono necessariamente degli studiosi di scienza della politica, per esempio l'autore di cui vi parlo adesso, Raffaele Simone, che è un importante linguista, il quale ha scritto Come la democrazia fallisce. È pubblicato da Garzanti, 220 pagine, 17 euro. Canton Simone ha una visione molto preoccupata, addirittura sulla stessa esigenza di credere ancora alla democrazia, che secondo l'autore è un paradigma politico basato su un complicato, coraggioso e geniale sistema di finzioni, cioè di proposizioni inattuabili ma cariche di un incantamento irresistibili. Proposizioni che chi sta al gioco democratico deve accettare senza troppo curiosarci attorno, a rischio se no che basti la minima vibrazione, dice sempre l'autore, per disfare tutto. I due problemi che intaccano il funzionamento della democrazia posti dalla modernità, secondo Simone, sono la fine del principio dell'autorità e la crisi della globalizzazione. E allora come se ne esce? Beh, per Simone la crisi della democrazia è indiscutibile, ma addirittura irreversibile, perché stiamo costruendo un modello che con la democrazia poco ha a che fare, la cosiddetta, dall'autore, democrazia dispotica. Infatti si parla di istantaneo trasferimento di tutto il potere alle caste, ai gruppi di interesse, alle lobby, il graduale esautoramento del Parlamento, l'esaltazione del potere quasi dispotico del governo e del suo capo, accompagnati dal disinteresse apatico dei cittadini e dal graduale uniformarsi dei media. Lo strumento principale della democrazia, naturalmente, sono, da che la democrazia esiste, le elezioni, ma anche il voto pare che non se la passi meglio. Così almeno sostiene un intellettuale belga, giornalista e poeta, David van Reybroek, che ha scritto contro le elezioni perché votare non è più democratico. È pubblicato da Feltrinelli, 158 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Matilde Pinamonti. L'autore ha fondato una piattaforma G1000 per l'innovazione della democrazia e una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico, e sostanzialmente in questo libro Van Reybroek rilancia una vecchissima tecnica di partecipazione democratica, e cioè quella delle elezioni per sorteggio. Il libro inizia con delle parole molto preoccupate: tutti sembrano aspirare alla democrazia, ma nessuno ci crede più. E d'altra parte, osserva l'autore, questa crisi di fiducia non colpisce solo la democrazia, ma praticamente tutto, enumera le poste, la sanità, le ferrovie. E allora, appunto, dopo aver passato in rassegna le varie diagnosi su questa crisi, la diagnosi populista, la diagnosi tecnocratica, la diagnosi basata sul fantasma della democrazia diretta, propone la propria diagnosi, che è quella che la democrazia è in crisi proprio perché è in crisi il principio di rappresentatività, e quindi rilancia appunto questo principio, il principio del sorteggio. Preoccupata è anche l'analisi di un filosofo del diritto italiano, Geminello Praterossi, che ha scritto Ciò che resta della democrazia, La Terza, 190 pagine, 20 euro, che parla di stanchezza, di perdita di spinta propulsiva, e dà una lettura filosofica di questa crisi, parlando apertamente di conclamata separazione degli interessi e dei bisogni popolari da chi in teoria dovrebbe rappresentarli, e propone di ripartire da quegli interessi, da quei bisogni, i bisogni popolari, perché la politica possa ritrovare la sua energia emancipativa. Ancora più brutale è un giornalista, almeno nel titolo, Stefano Feltri, che ha scritto La politica non serve a niente perché non sarà il palazzo a salvarci. Questo è pubblicato da Rizzoli, 206 pagine, 17 euro. Amara la constatazione dell'autore che, citando Altan, confessa di manifestare qui pensieri che non condivide, nel senso che naturalmente l'impotenza della politica non lo soddisfa, ma lo delude. E allora Stefano Feltri parla dei sintomi del declino, passa in rassegna l'emergere del populismo, dovuta anche all'impotenza delle ricette economiche, l'opposizione all'innovazione che dilaga un po' in tutta la società. Feltri non è un pessimista all'estremo, anzi scrive che le competenze acquisite e la capacità di svilupparne di nuove sono l'unica garanzia parziale di poter affrontare i possibili scenari futuri che ci attendono, e quindi insiste molto sull'importanza dell'istruzione per avere dei cittadini più preparati, più formati, che possano reggere le sfide della modernizzazione. Parla del ruolo dei social media, accenna alla cosiddetta Repubblica di Facebook, entra nei casi e nella vita quotidiana, misurandosi con problemi che viviamo tutti i giorni, soprattutto in Europa, in Italia. E allora conclude che alla politica resta soprattutto un compito, quello di rendersi utile, mettendo in condizione i cittadini di cui è responsabile di approfittare delle opportunità che si aprono, limitando il numero delle vittime. E appunto c'è un solo modo per farlo: garantire l'istruzione adeguata. Un'analisi serena e qualificata sulle trasformazioni in corso nella politica democratica è quella di un noto intellettuale francese, storico e filosofo della politica, Pierre Rosan Vallon, di origine ideologica socialista. Egli ha scritto un libro che si intitola La legittimità democratica, pubblicato da Rosenberg e Sellier, 312 pagine, 22 euro, tradotto da Filippo Domenicali. Anche qui l'autore parla di un contrasto interno alla democrazia e al principio maggioritario tra l'aspetto della giustificazione e quello della tecnica di decisione, come prendere decisioni e quale tipo di decisioni bisogna prendere. Ma il filosofo osserva che si tratta di una finzione molto spesso, perché la volontà della maggioranza si è trasformata come il sinonimo nei sistemi politici moderni della volontà generale, della volontà di tutto il popolo, e poi questo procedimento è stato ulteriormente corrotto dal ruolo crescente dei partiti e dalle consorterie. Quindi Rosan Vallon conclude che durante tutto il periodo degli anni 1890-1920, nel corso del quale si susseguono le opere che auscultano la crisi della democrazia, l'idea che il funzionamento del sistema elettorale maggioritario conduca a esprimere l'interesse sociale ha perso qualsiasi credibilità. Quindi una mancanza di legittimazione che ha radici antiche nel tempo. Allora, come ricostruire questa legittimità alla luce di tante contraddizioni che qui vengono esaminate? Ci sono varie forme proposte. oltre a quelle che hanno a che fare col procedimento elettorale, per esempio i principi di prossimità e di interazione. La partecipazione elettorale è casuale, invece occorre costruire, dice l'autore, delle forme di democrazia permanenti che consentano una riappropriazione sociale effettiva del potere al popolo. Un altro famoso politologo, questo inglese, è David Runciman, che insegna a Cambridge, che ha scritto Politica, è pubblicato da Bollati Boringhieri, 174 pagine, 11 euro, tradotto da Gadi Luzzatto Voghera. La politica serve come, secondo Runciman? Serve per esempio a spiegare la differenza che oggi c'è fra la Siria e la Danimarca, quest'ultimo un paese che 500 anni fa assomigliava molto alla Siria di oggi, anche nell'instabilità politica e nel clima bellicoso. E infatti la politica, se produce istituzioni stabili, scrive l'autore, favorisce dei processi che consentono di diventare come la Danimarca, paesi stabili, partecipati e ricchi, e non si soccomba come la Siria. E allora l'autore si pone tre domande. Com'è possibile che la stessa parola politica comprenda società così differenti quali la noiosa e sicura Danimarca e la caotica e misera Siria? Secondo, come può essere che la politica continui a fare la differenza mentre stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti tecnologici così repentini? Terzo, se la politica è ciò che fa la differenza, perché tolleriamo una così vasta disparità tra gli stati con più successo nel mondo e quelli maggiormente in disgrazia? Come vedete, delle domande che riassumono un po' tutti i temi di cui abbiamo parlato. E l'autore ha due conclusioni ottimistiche che riprendono, spesso capovolgendole, alcuni degli spunti che sono emersi nei libri precedenti. Naturalmente, perché la politica funziona, servono delle persone per bene, e allora occorre, e allora fa bene rileggere dei maestri, per esempio Luigi Sturzo, di cui il Rubettino pubblica Servire non servirsi, la prima regola del buon politico, con una postfazione di Marco Vitale, 82 pagine, 9 euro. E questo libro raccoglie un discorso che tenne Sturzo in Senato, dove era senatore a vita. È un discorso che tenne poco prima della morte, e in più ci sono 3 letture e 12 articoli scritti, con i quali Sturzo, che come ricorderete fu uno dei padri della Repubblica Democratica Antifascista, martella su un tema che era diventato dominante nella sua attività politica, cioè l'esigenza di moralizzare la vita pubblica. Come ricorda Giovanni Palladino nella prefazione, il vero padre della questione morale in Italia fu proprio Sturzo, fin dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale, perché Sturzo fu il primo a riconoscere l'origine del malaffare nel dilagare dello Stato imprenditore. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di filosofia della politica, e allora vi segnalo un libro che introduce i ragazzi ad alcuni grandi del pensiero filosofico e politico, cioè Rousseau, Kant, Marx e Wittgenstein. Il libro si intitola Piccoli grandi filosofi, di Emiliano Di Marco, pubblicato La Nuova Frontiera, illustrato da Giusy Capizzi, 94 pagine, 17 euro, un libro che si chiude con l'auspicio che un giorno anche le parole di chi leggerà questo libro possano diventare immortali come quello di questi 4 eroi del pensiero. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Filippo Reggi regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.